vedo storie molto lontane. Vedo miti mai tramontati, mentre penso al nostro passato, perché il passato è con noi. Non c'è più niente da inventare, sembra difficile creare, ma sento sogni da realizzare, stelle lontane mi stanno guardando. A volte mi sembra di sognare, andando a ritroso nel passato. Ascolto nastri mai cancellati, perché il passato è con noi. Non c'è più niente da inventare, ma suoni nuovi mi stanno assalendo. Ora ho la forza di creare, stelle lontane mi stanno guardando. Non c'è più niente da inventare, i nuovi mi stanno assalendo. Ora ho la forza di creare, stelle lontane mi stanno guardando. Nella vita c'è sempre da creare, creare, lasciare spazio all'immaginazione. Nella vita c'è sempre da creare, creare, lasciare spazio all'immaginazione. Nella vita c'è sempre da creare, creare, lasciare spazio all'immaginazione. C'è sempre da creare.